La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 20 di luglio, in diretta alle 16.31, prima a 16 secondi, dagli studi Radio 24 di Milano. Auguri a chi si chiama Apollinare, visto che oggi è Santa Apollinare, e vado subito al tema della trasmissione per consentirvi di intervenire in diretta formulando sulla tastiera del telefono 800 24 00 24. Lo sapete, per i vostri sms invece 349 238 66 66. Io consiglierei ai conduttori che fanno i nodi ai fili del microfono di farsi vedere. Però, detto tutto questo, allora, di che cosa parliamo oggi? La scorsa settimana, quando esplose la vicenda del presidente della Regione Sicilia Crocetta e delle intercettazioni tra Crocetta e il suo medico Tutino, lanciate dall'Espresso, secondo le quali Tutino si rivolgeva al presidente della regione riferendosi all'allora assessore alla sanità Lucia Borsellino, dicendo deve fare la fine del padre, cioè deve essere uccisa. Ricordate che quel giorno stesso facemmo una trasmissione nella quale però noi ponemmo al centro del bilancio dell'esperienza di Crocetta fino a questo momento i suoi numeri: l'aumento del debito, della spesa, il rodeo degli assessori, il commissariamento in arrivo sulla faccenda della mancata soluzione dei rifiuti, quell'altro commissariamento in arrivo sulla mancata soluzione del problema della formazione, che in Sicilia aveva centinaia di enti che prendevano i soldi facendo finta formazione. Tutte cose precedenti alla gestione Crocetta, ma in ogni caso una gestione Crocetta deficitaria per i numeri. Lo facemmo con il direttore del Quotidiano di Sicilia, che quella stessa mattinata aveva aperto il giornale chiedendo il commissariamento della regione siciliana per i numeri, non per l'intercettazione. Nel frattempo torniamo sulla questione dell'intercettazione oggi, perché si è creata una situazione classicamente italiana da una parte, ma dall'altra, come inverosimilmente mai fino a questo momento si è prodotto, sia pur nella storia di un paese che da 20 e più anni a questa parte fa delle intercettazioni sui media che vengono dai fascicoli, dai brogliacci degli atti giudiziari, uno dei metodi ordinari, abituali della polemica politica e della creazione di casi politici. La situazione che si è venuta a creare è una situazione senza precedenti, e per questo vorrei sapere come la pensate voi da cittadini, chiamando all'800 24 00 24, perché abbiamo da una parte il procuratore di Palermo Lovoi, che nel corso di quella stessa giornata, dopo la nostra trasmissione, smentì che quell'intercettazione facesse parte degli atti giudiziari relativi alle inchieste in corso che avevano condotto all'arresto del professor Tutino, il primario dell'ospedale Santa Sofia. La procura dice formalmente e ufficialmente: quelle intercettazioni negli atti non ci sono. A questo ha replicato la direzione dell'Espresso dicendo: questa intercettazione c'è, e in un altro dei tre filoni di indagine aperti su Tutino, rispetto al filone che ha già condotto alla limitazione della libertà del professor Tutino, noi quella intercettazione l'abbiamo ascoltata, ce l'hanno fatta ascoltare, la fonte dell'Espresso, dice il direttore dell'Espresso, l'ha fatta ascoltare al giornalista dell'Espresso, che poi ha firmato l'articolo con il lancio dell'intercettazione, fa parte di un altro filone di indagine, degli atti giudiziari di quest'altro filone di indagine, noi l'abbiamo ascoltata, questa intercettazione c'è. È molto disturbata, il presidente della regione Sicilia non replica alla frase relativa a Lucia Borsellino che deve fare la fine del padre, è molto disturbata, ma c'è. Ecco, da allora noi siamo fermi a queste due posizioni: un'intercettazione che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché ricordo la posizione non è cambiata del PD, il PD da quel giorno ha detto Crocetta deve andare a casa, Crocetta appreso della smentita da parte della procura, dice: queste sono macchinazioni oscure contro di me, io sono un combattente, ha detto sabato scorso, quindi non ci penso proprio a dimettermi, sfiduciatemi in aula, ma non ci penso proprio a dimettermi. Ricordate che noi mandammo in onda quel pomeriggio una registrazione presa da un collega di Repubblica in cui, parlando con Crocetta, Crocetta non smentì di aver sentito quella frase. Crocetta disse: sono a pezzi, lasciatemi alla mia sofferenza, voglio riflettere, e poi si mise a piangere, ma non smentì quella frase. Invece adesso è diventato, dopo la smentita della procura da parte di Crocetta, una smentita totale, per così dire, che sfida il PD, che resta sulla posizione che bisogna chiudere la pagina della giunta Crocetta. Ma restando al fatto dell'intercettazione, non era mai capitato fino a quest'oggi che un organo di informazione, sostenendo di aver ascoltato un'intercettazione, naturalmente non rivela la fonte, a fronte di una procura che dice non ci consta questa intercettazione negli atti giudiziari, nei brogliacci, neanche nelle intercettazioni non trascritte, ecco, non era mai capitato nella storia italiana che arrivassimo a una crisi politica molto importante come quella che riguarda la Presidenza della Regione Sicilia in presenza di una pubblicazione di un'intercettazione rispetto alla quale la procura, dai cui atti di polizia giudiziaria disposti dalla procura, il giornale che la lancia dice che quella intercettazione viene, dice: no, noi non ne sappiamo nulla, questa roba non c'è. Ecco, questo è il paradosso, vorrei capire voi cosa ne pensate, ma su questo paradosso fino a quest'oggi l'articolo che più mi ha colpito da lettore e da giornalista è quello che ho letto stamane sul Messaggero, e il fondo del Messaggero che è firmato da Carlo Nordio, il procuratore aggiunto di Venezia. Perché mi ha colpito? Perché il procuratore di Venezia, da magistrato, nell'editoriale spiega i quattro diversi casi che possono capitare in Italia a proposito della pubblicazione di intercettazioni di atti giudiziari, e man mano che li spiega arriva poi a una conclusione tosta, radicale, però poiché ho magistrato a parlare, l'ho voluto invitare in trasmissione perché mi è sembrata che la spiegazione di questi quattro casi sia la più lineare e comprensibile anche per un pubblico non tecnico, di non addetti ai lavori, che non conosce nei dettagli il codice di procedura e le regole vigenti su una materia così incandescente per la politica italiana come è quella delle intercettazioni. Ricordate che solo pochi giorni prima, a fine della mia introduzione, lo stesso PD, per bocca del ministro Boschi, ha liquidato come illazioni fantasy le intercettazioni, anch'esse pubblicate, che erano relative a colloqui tra il vice comandante generale della Guardia di Finanza Adinolfi e il presidente del Consiglio. Intercettazioni dalle quali si capiva che il vice comandante generale della Guardia di Finanza ha una lunga consuetudine da quando aveva un carico apicale della finanza in Toscana con l'allora sindaco di Firenze Renzi, per l'ennesima volta un alto ufficiale della Guardia di Finanza che insomma un po' tresca con la politica per avere conferme e carriera, e con giudizi del Presidente del Consiglio sull'allora Presidente del Consiglio invece Enrico Letta. In quel caso il PD ha bollato quelle intercettazioni come illazioni fantasy, per poi all'indomani dire Crocetta se ne deve andare per la gravità della frase relativa alla figlia di Borsellino, e a tutt'oggi sono passati giorni, noi restiamo con questa situazione paradossale di una procura che dice noi non ne sappiamo niente, di un giornale come l'Espresso, non proprio l'ultima testata italiana, che dice no, come, noi l'abbiamo ascoltata. Allora, buon pomeriggio a Carlo Nordio e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, può intanto, dottor Nordio, spiegare i quattro casi che lei puntualmente sintetizza nel suo editoriale? Ma dunque, le intercettazioni telefoniche e ambientali, e parlo ovviamente di quelle che sono lecitamente autorizzate da noi, cioè dall'autorità giudiziaria, sono di vario tipo. Allora, il primo esempio è determinato da quelle intercettazioni che finiscono nel fascicolo processuale e vengono a conoscenza un po' di tutti, anche se contengono delle affermazioni di persone che non c'entrano nulla con l'indagine e che vengono magari così messe alla gogna senza ragione, però la loro diffusione non è realmente consentita dal codice di procedura penale, ma diciamo che non è nemmeno punita. Perché sono le intercettazioni che finiscono nei fascicoli, che vanno a disposizione degli avvocati di tutte le parti del procedimento. La legge, con un'espressione abbastanza ambigua, tutta bizantina italiana, dice che non sono pubblicabili ma non sono segrete. E allora, non essendo segrete, si pubblicano anche se non sarebbero pubblicabili. Non mi chieda la spiegazione di questo ossimoro, ma questo è quello che dice il codice di procedura penale. Secondo, queste sono le intercettazioni che si leggono sempre sui giornali, esatto, diciamo, quotidianamente. Poi ve ne sono altre che non sono, diciamo così, ostensibili alle parti, cioè non vengono a disposizione degli avvocati, però sono pur sempre contenute nel fascicolo processuale, che significa che chi ha accesso al fascicolo, quindi avvocati, cancellieri, gli stessi magistrati ovviamente e altri, ne vengono a conoscenza e in un modo o nell'altro le lasciano filtrare. In questo caso sono intercettazioni che esistono, non potrebbero essere pubblicate, si pubblicano lo stesso. E poi diciamo che come consuetudine non accade nulla. Il terzo aspetto è rappresentato da quelle intercettazioni che esistono, ma sono semplicemente registrate, cioè naturalmente le intercettazioni vengono, prima di essere trascritte, cioè scritte nei brogliacci, vengono ascoltate. Ecco, ci sono delle intercettazioni, soprattutto le intercettazioni preventive si chiamano, che vengono solo registrate, ascoltate dalle parti, ma non finiscono nel fascicolo processuale. Queste non possono essere divulgate. Credo che ci sia stato un esempio, ma potrei sbagliare, quella volta, famoso caso, abbiamo una banca in cui si parlò di intercettazioni che erano esistenti, ma non erano state trascritte dalla polizia giudiziaria, per cui ci fu un processo. Erano relative all'onorevole Fassino. Penso di sì, ecco. Esatto. Non, ripeto, non vorrei sbagliare, sono passati alcuni anni, ma se la memoria non mi inganna, si trattava di intercettazioni esistenti, ma non inserite nel fascicolo perché nemmeno trascritte. Nel quarto caso, che è quello di cui si parla oggi, si tratta di intercettazioni che non esistono, nel senso che la Procura della Repubblica ha detto che non esistono. E se lo dice la Procura della Repubblica, che è l'unica legittimata a esprimersi, vuol dire che non esistono. In questo caso, fermo restando che suppongo, a quanto ho letto sui giornali, che l'interessato, cioè il presidente Crocetta, abbia già inoltrato una denuncia per diffamazione, se ne può uscire soltanto in un modo, cioè chiedendo nel suo interesse al diretto interessato, cioè all'Espresso, di rivelare non solo la fonte, ma anche il contenuto di queste intercettazioni e la loro struttura, cioè dove sia questa intercettazione, dove sia questo verbale, dove sia questa registrazione, perché altrimenti ci troveremo di fronte a un reato di diffamazione estremamente grave per le conseguenze che ha comportato, con una possibilità di risarcimento pecuniario che oserei dire stratosferica, visto il danno che provo. Politico. Certo, però no, aspetti, però prima di arrivare alle conclusioni, un'altra domanda per spiegare a chi è a casa, perché il primo caso che lei presenta è chiarissimo: quando ci sono le trascrizioni che vanno agli atti giudiziari a disposizione degli avvocati delle parti, vabbè, non si dovrebbe, ma i giornali pubblicano. Il secondo, le intercettazioni ci sono negli atti giudiziari, anche se non in quelli che vanno alle parti, però le parti possono avere accesso, vedono eccetera eccetera, parlano i giornali pubblicano, è una violazione più grave, ma comunque avviene. Concentriamoci invece, dottor Nordio, nella differenza tra il terzo e il quarto caso, che secondo me è quello che configura le possibilità nel caso Crocetta all'Espresso. Perché lei dice: nel terzo caso le intercettazioni esistono, ma non sono trascritte nei brogliacci. Esistono. Poiché il direttore dell'Espresso dice che il giornalista dell'Espresso ha sentito la registrazione, la domanda che le faccio io: chi è che decide quali delle intercettazioni vengono trascritte dal brogliaccio? Lo decide il pubblico ministero che sente tutto? No, lo decide il sottufficiale o l'ufficiale della polizia giudiziaria che ascolta? Perché questo ci potrebbe far capire se esiste e chi lo formula il criterio della decisione in ordine a ciò che sta nei nastri e viene trascritto nel brogliaccio, cosa diversa poi dal decidere di metterlo negli atti. Però in questa prima fase, tra ciò che è ascoltato e ciò che è trascritto, chi lo decide? Il magistrato o la polizia giudiziaria? Lo dico anche perché, se è vero invece quello che dice l'Espresso, vuol dire che chi gliel'ha fatto sentire è qualcuno che ha conoscenza del fatto che quelle frasi sono state davvero pronunciate a telefono, e che a quel punto ha fatto sentire quella registrazione, anche se magari non è stata trascritta. E a quel punto si potrebbe spiegare anche che la procura dica, per quanto ne sappiamo noi, non ne sappiamo nulla. Ma il magistrato, titolare dell'indagine, sente tutto o non è lui a decidere che cosa viene trascritto o meno? Questa è la mia domanda. Sì, risponderò per ordine logico. Dico subito che questo non può essere avvenuto in questo caso, però le rispondo con una sequenza, spero di essere chiaro. Allora, primo, le intercettazioni vengono ascoltate ovviamente dalla polizia giudiziaria, sì, la quale in una prima battuta trascrive quelle utili per le indagini e le altre non le cancella ovviamente, ma semplicemente le omette scrivendo intercettazioni non utili per l'indagine. Mm. A questo punto rispondo quindi alla prima domanda: le intercettazioni le sente la polizia, il magistrato legge i brogliacci e poi legge queste dichiarazioni che riguardano intercettazioni non considerate utili. Ma nel caso di specie si sono verificate due cose. Primo, la stessa polizia giudiziaria ha detto che non esistono quelle intercettazioni e quindi loro le hanno ascoltate e hanno detto che non esistono. Secondo, è ovvio che la Procura della Repubblica, investita di un caso così importante, se le sarà ascoltate queste intercettazioni, altrimenti non avrebbe prima detto di smentirlo, no? Lei dice, certo, a quel punto il procuratore capo, certo, anche se qualcosa non c'è nei brogliacci, dice sentite tutto di nuovo, perché io devo, per smentirlo vuol dire che non c'è neanche nelle cose non trascritte, corretto? Dicevo che questo non può essere. Attenzione, io ho ascoltato proprio per radio le dichiarazioni sia del procuratore capo che del procuratore aggiunto. Non hanno detto non esistono negli atti, perché a quel punto potrebbe aver ragione l'Espresso e dire, certo, no, non ci sono in questi atti, ci sono in altri atti oppure sono segretate. Hanno detto entrambi non esistono proprio. Esatto. E così ha detto la polizia giudiziaria. A questo punto chi potrà decidere? Beh, secondo me, a fronte di una denuncia che mi pare di aver letto essere già stata, sì, inoltrata, si decide lì. Diffamazione aggravata, oltre a quella per danni, eccetera, eccetera, del presidente Crocetta, dovrà essere l'Espresso a dire dove, da chi e come ha avuto questa notizia. Attenzione, non si tratta qui di invocare il segreto professionale. Il segreto professionale si invoca quando la notizia è vera, ma non si vuol dire che te l'ha data. Ma qui siamo in un caso di una notizia che sarebbe inventata. Una notizia che dice non essere esistente. Allora il problema diventerebbe chi è stato a presentarsi eventualmente al giornalista dell'Espresso facendogli sentire una trascrizione, così dicono i colleghi dell'Espresso, e a che fine. Allora fermiamoci qua per la ricostruzione, che spero sia stata chiara a tutti i nostri ascoltatori, di che cosa può essere avvenuto. E a questo punto poi arriviamo alle conseguenze che ne tira invece il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. Tra un minuto, prima l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Allora, siamo tornati in diretta a occuparci di questa ricostruzione di quello che può essere avvenuto o meno. L'Espresso dice di aver ascoltato questa intercettazione del dottor Di Crocetta con Crocetta, il dottor Di Crocetta che diceva a Crocetta bisogna eliminare la figlia del Borsellino, assessore alla sanità. Era notissimo che c'erano gli scontri con l'assessore alla sanità, che si è dimesso prima di questa faccenda, e Crocetta si sarebbe limitato a non rispondere, questo è il punto. Dopodiché però la smentita della procura, che dice guardate che questa intercettazione non c'è, crea un problema addirittura inusitato rispetto per un paese che usa le intercettazioni pubblicate fregandosene di ciò che la legge dispone sul fatto che non dovrebbero essere pubblicate. Molti di voi mandano sms dicendo ma Crocetta ha presentato denuncia di infamia? Sì, quindi come ci ha spiegato il procuratore aggiunto di Venezia, che con noi Carlo Nordio, quello diventa la sede, il procedimento nel quale dare una risposta giudiziaria a che cosa è davvero avvenuto, e in quel caso il giornalista va incontro a conseguenze molto gravi. nel caso in cui opponesse il segreto professionale, di fronte a una procura, alla polizia giudiziaria, che dicono no, questa intercettazione non c'è negli atti, non è trascritta, non c'è neanche nei nastri non trascritte. Allora, che conseguenze tirarne però, dottor Nordio, rispetto a questo punto che è, per così, la ciliegina sulla torta di un paese impazzito con le intercettazioni? Ma guardi, sono 15 anni vivo che la disciplina delle intercettazioni e l'uso che se ne fa è una, si perdoni la parola, una porcheria indegna di un paese civile. E come era immaginabile, ce ne sono serviti in vari momenti, le varie forze politiche, sociali e altre, per delegittimare, come si dice, o come ha detto l'onorevole D'Alema in un modo più classico, sputtanare gli avversari politici. Io credo che sia arrivato il momento, anche se non mi faccio molte illusioni, di rivedere completamente questa situazione, ripeto, indegna di un paese civile. L'Italia è l'unico paese al mondo dove le intercettazioni telefoniche e ambientali vengano condotte, come si dice, a strascico, con costi inimmaginabili per la giustizia e con conseguenze deplorevoli per l'onore e il decoro di chi rimane coinvolto anche se non è direttamente indagato. Non mi faccio molte illusioni, perché a seconda di chi finisce in questa situazione deplorevole, le altre parti politiche avversarie invocano in un modo o nell'altro una riforma oppure il mantenimento dello status quo. Credo anche attraverso delle forme che oserei dire antipatiche o quasi ricattatorie, cioè il fatto che ogni volta che si tenti di fare una riforma esca qualche intercettazione. No, è ovvio, sì. Questo è avvenuto innumerevoli volte. Io le faccio però un'obiezione articolata su due cose. La prima, come lei sa, diciamo, chi esercita la voce, cioè la rappresentanza dei magistrati italiani, insiste sempre sul fatto che le intercettazioni sono fondamentali, non solo per i reati più gravi, eccetera, eccetera, eccetera. Da una parte, che è una componente, diciamo, a limitare l'uso delle intercettazioni negli atti giudiziari. Per quello che riguarda invece la pubblicazione, le dico nel bivio, insomma, giornalista ed editore, chi è che dovrebbe vedere gli aggravi di pena e di che tipo? Pene relative alla libertà del giornalista, pene relative a quanto paga il giornalista, pene relative a quanto paga l'editore, lei che dice? Guardi, colpire il giornalista o l'editore, a meno che non si tratti di intercettazioni fasulle inesistenti, come forse in questo caso potrebbe essere il caso del genere, allora la pena secondo me deve essere spietata, perché sarebbe, ma lo dico al condizionale, certo, sarebbe una diffamazione di una gravità inaudita, con dei danni anche patrimoniali e morali, ripeto, stratosferici. Ma quando si diffondono intercettazioni esistenti, ancorché segrete, la colpa non è mai del giornalista, il giornalista se ne viene in possesso. Ma lei lo sa che però non riusciamo mai a capire se è stato un magistrato, un cancelliere, uno della polizia giudiziaria a darle al giornalista. Non riuscirete mai, innanzitutto perché qualche volta è lo stesso magistrato a fornire la notizia, e quindi è impensabile che denunci se stesso. In secondo luogo, perché le intercettazioni, quando finiscono, questa è una questione puramente tecnica che nessuno ha mai voluto affrontare, anche se mi dispiace dirlo perché è brutto citare se stessi, lo scrivo da quasi 20 anni, quando le intercettazioni finiscono nel fascicolo processuale in un modo o nell'altro, venendo a conoscenza di dozzine, qualche volta addirittura di centinaia di persone, se i processi coinvolgono molte parti, quindi molti avvocati, cancellieri, eccetera, diciamo, vengono a conoscenza di un tal numero di soggetti che è impossibile risalire a chi le diffonde. Quindi l'unica soluzione per eliminare questa fonte di delegittimazione, o come ha detto l'onorevole D'Alema, di sputtanamento, è di servirsi sì delle intercettazioni telefoniche, adesso però dirò subito quanto siano utili o non utili, ma senza inserirla nel fascicolo processuale, ah, ecco. Cioè senza valersene come prova in sé, esatto, ma semplicemente come mezzo di ricerca della prova, mm, esattamente come si fa con per le, anche per le confidenze delle spie, no, certo, anche, certo, anche per gli anonimi, che qualche volta sono utili ma devono essere spunto per le indagini. Non lo so se la maggioranza dei suoi colleghi è d'accordo con lei, non lo so. Ma guardi, sa, la maggioranza dei miei colleghi probabilmente non è d'accordo per varie ragioni. La più, secondo me, la più facile da spiegare è quella un po' filosofica, quella di Fenofane, che diceva che i traci immaginavano gli dèi biondi con gli occhi azzurri, i neri li immaginavano neri, eccetera, eccetera. Potesse pensare. No, no, ma comunque devo ammettere che la sua è una soluzione radicale, cioè non tanto lo carcere ai giornalisti eccetera, quanto non le si metta negli atti giudiziari, perché sono spunti di prova da confermare e non argomento di prova in sé. Una misura radicale che però risolverebbe probabilmente gran parte dei mali collegati a questa roba. Sulla Sicilia continueremo a vedere e a monitorare, a informarvene. Continuate con la 24, appuntamento con me a domani. Grazie dottor Nordio.